Lo zelo viene definito quell'operoso impegno che si mette e si dimostra in un'attività o per la realizzazione di un fine. Stando così le cose, comprendiamo quanto sia importante lo zelo nella vita. Perché tutti fin dalla nascita abbiamo bisogno di raggiungere delle mete e senza zelo e un serio impegno non si approda a nessun fine. Come per tutte le altre cose, la parola di Dio si riferisce abbastanza allo zelo, anche perché una vita cristiana che ne sia priva è inconcepibile. Forse una delle più belle definizioni sullo zelo è quella del vescovo Ryle. L'uomo zelante in religione è un uomo che ammira una sola cosa. Non basta dire che egli è serio, volenteroso tutto di un pezzo, perseverante e coscienzioso, che è pronto a tutto, fervente nello spirito. Egli vede una sola cosa, sicura di una sola cosa, è attratto da una sola cosa, piacere a Dio, che viva o muoia, che sia sano o malato, ricco o povero, gradito o meno agli uomini, che sia ritenuto saggio o sciocco, che ottenga biasimo o lode, onore o vergogna. Di tutto questo, l'uomo zelante non si cura. Egli arde per una sola cosa, ed è piacere a Dio e promuovere la sua gloria. Se arde fino a consumarsi completamente, non se ne cura, è contento. Sente che come una lampada, egli è fatto per bruciare, e se si consuma bruciando, ha compiuta soltanto l'opera per la quale Dio lo ha chiamato. Se gli è impedito di lavorare, non concederà riposo al Signore finché non si leverà l'aiuto da un altro canto. E l'opera non sarà completata. Si può essere comprensivi con un credente se non ha grandi capacità mentali, come non è colpa sua se non mostra forze fisiche eccezionali, ma non si può scusare un figlio di Dio nel quale manchi lo zelo. Se il suo cuore non arde di passione infuocata per il suo Salvatore, se non ha lo stesso zelo pieno di amore per i perduti come l'ebbe Gesù quando era sulla terra, allora egli deve rivedere qualcosa nella sua vita. Come disse un ateo, se la religione in questa vita influenzerebbe veramente il destino nell'altra, allora la religione sarebbe il mio primo pensiero del mattino e la mia ultima immagine prima di addormentarmi. La terra, le sue gioie e i suoi dolori non occuperebbero nemmeno un momento i miei pensieri. Prendiamo sul serio le parole di questo ateo ed esaminiamo lo zelo alla luce della parola di Dio. Ne possiamo notare 7 aspetti, e cioè che esso può diminuire, può essere pigro, ignorante e sbagliato. Per questo chi ha posto fede in Cristo Gesù deve possedere uno zelo simile a quello di Gesù. Uno zelo che è in grado di influenzare positivamente e che nasce dall'Evangelo di Dio. 1. Lo zelo può diminuire. Possedere una virtù non significa possederla per sempre. Un'eccezionale forza non tenuta in attività diminuisce, come diminuisce una memoria non esercitata. Così è dello zelo. Ci sono persone che sono particolarmente zelanti, ma ho vissuto abbastanza per vedere alcuni ridurre ai minimi termini il loro zelo, per non dire che alla fine lo hanno perso. La parola di Dio in merito dice: desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza. Ebrei 6:11. L'obiettivo di chi possiede la virtù dello zelo, virtù tra l'altro distribuita a tutti, anche se non di ugual misura, a meno deve essere quello di non perderlo e di mantenerlo sempre attivo esercitandolo, il che comporta un atto di volontà e di accortezza. Ho presente in modo particolare un giovane che, dopo aver creduto in Cristo quale Signore e Salvatore, era dotato di uno zelo veramente unico, ma in seguito il suo amore per il denaro ne ha spento l'ardore. Mentre altri giovani si sono letteralmente fermati quando si sono uniti in matrimonio con degli increduli. Vi sono 3 esse, dalle quali il credente si deve guardare: sesso, soldi e superbia. Sembra che queste 3 esse siano i nemici più acerrimi dello zelo, perché, mentre quest'ultimo non è sufficiente per migliorare il nostro rapporto con sesso, soldi e superbia, gli errori sono capaci di ridurre lo zelo. 2. Lo zelo può essere pigro. Sta scritto nella parola di Dio: non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Romani, mezzogiorno e 11. È difficile comprendere come lo zelo possa essere pigro, perché o è zelo o non lo è. Ma la parola greca dalla quale viene tradotto zelo significa sollecitudine o premura. Perciò l'ordine di Dio è quello di agire nella vita cristiana non di malavoglia o senza essere interessati in ciò che si fa, ma con il desiderio di compiere la volontà di Dio. In merito a questo ho presente mio nipote quando fa i compiti. Generalmente lo vedo con una gamba su tavolo e con gli occhi rivolti verso il vuoto. Non si può dire che non faccia i compiti, ma il suo desiderio, in quel momento, è ben lontano da ciò che deve compiere. Per Dio non è sufficiente che uno compia la sua volontà, ma il suo volere è che ognuno desideri fare la sua volontà e lo faccia con tutte le sue forze. Abbiamo noi questo tipo zelo? 3. Lo zelo può essere ignorante. Possedere dello zelo è certamente una cosa buona, ma dobbiamo anche riconoscere che non è tutto. Come non è sufficiente avere un fucile per andare a caccia, dipende da chi abbiamo preso di mira. Così, una volta che si ha lo zelo, è necessario che questo sia accompagnato da una buona conoscenza. In merito a ciò, l'Apostolo Paolo disse al popolo di Israele del suo tempo: «Rendo loro testimonianza infatti che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza». Romani 10, 2. Nessuno può mettere in discussione lo zelo degli ebrei perché hanno spesso dimostrato il loro attaccamento per le cose di Dio. È sufficiente ricordare quando erano nei campi di concentramento e stavano entrando nelle camere a gas, fino all'ultimo momento leggevano la parola di Dio e recitavano le preghiere. Tutto questo tocca, ma dobbiamo anche ammettere con l'Apostolo Paolo, che tra l'altro era ebreo, che il loro zelo non era accompagnato da un'adeguata conoscenza. Così, occorre non adagiarsi sul fatto di avere zelo per la causa di Dio, ma è indispensabile applicarsi alla lettura della parola di Dio per correggere gli eventuali obiettivi sbagliati. 4. Lo zelo può essere sbagliato. Non esiste solo uno zelo ignorante, ma è possibile anche essere motivati da tanto ardore e compiere le cose più assurde e sbagliate. Che differenza passa tra l'errore di uno zelo compiuto per ignoranza e l'errore di uno zelo sbagliato? L'errore non è sempre errore. L'errore è sempre errore, ma un cosa è sbagliare mentre si compie una cosa giusta. Altra cosa è sbagliare perché non si sta compiendo la cosa giusta. Quando l'Apostolo Paolo ricordò in una sua lettera il suo passato, lo riassunse dicendo che quanto allo zelo era persecutore della Chiesa. Filippesi 3:6. L'Apostolo Paolo è sempre stato un uomo pieno di zelo, ma mentre prima di conoscere personalmente Gesù Cristo questo zelo era indirizzato alla persecuzione della Chiesa, in seguito il suo zelo, anche se era imperfetto o meno, era indirizzato a compiere del bene a favore dei credenti. Lo zelo sbagliato è stato messo in evidenza da Gesù quando disse: «Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio». Giovanni 16, 2. Quante persone anche oggi hanno zelo da vendere, ma lo indirizzano per uccidere e compiere del male verso il prossimo? Lo zelo è una virtù da ricercare, ma deve essere nutrito da un sano modo di pensare che scaturisce dalla parola di Dio. Giustamente sta scritto che lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Proverbi 19.2. E se sta scritto nella parola di Dio, dobbiamo crederci. 5. Lo zelo ha caratterizzato la vita di Gesù. L'esempio di uno zelo giusto lo scorgiamo nella vita di Gesù. L'Evangelista Giovanni mette in evidenza lo zelo di Gesù, non in un momento nel quale compie una cosa approvata da tutti, ma nel momento in cui Gesù, prendendo in mano un frustra di cordicelle, scaccia i venditori di pecore e i cambiamonete nel Tempio di Gerusalemme. Il commento di Giovanni è il seguente: «Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: "Lo zelo della tua casa mi ha divorato". Giovanni 2:17. È molto importante questa nota del discepolo che Gesù amava, perché sottolinea che a volte chi ama Dio può essere indotto dallo zelo a compiere anche cose poco inusuali. 6. Lo zelo influenza positivamente. È proprio vero che nessuno di noi è un'isola, ma tutti ci influenziamo a vicenda. Chi ha uno zelo giusto stimola altri ad imitarlo. In merito a questo, l'Apostolo Paolo aveva incoraggiato i credenti a donare del denaro per aiutare i poveri, che gli abitanti di Corinto avevano donato con gioia. Per questo loro gesto, Paolo scrive nella sua seconda lettera, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso. E lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. 2 Corinzi 9, 2. Poche cose sono belle in questo mondo, come l'essere di esempio agli altri. Essere dei credenti è certamente un grande dono, ma essere di esempio nello zelo è un gesto che è e sarà grandemente ricompensato nei cieli. La vita cristiana non sarebbe forse più bella se tutti i credenti cercassero di essere un esempio nello zelo? 7. Lo zelo nasce dall'Evangelo di Dio. Abbiamo detto che non tutti nascono con lo stesso zelo, ma è anche vero che lo zelo può essere stimolato da Dio stesso mediante l'Evangelo. Quando Paolo ordinò ai credenti di Efeso di rivestirsi di tutta l'armatura di Dio per sconfiggere il diavolo, mise tra i pezzi dell'armatura anche lo zelo che produce la parola di Dio. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Efesini 6 e un quarto. Lo zelo di annunciare la parola di Dio non dovrebbe mancare mai in nessun credente, perché tra le opere importanti che egli compie su questa terra, far conoscere a tutti che è già pronto il perdono di Dio per tutti i peccati degli uomini è certamente l'opera più apprezzabile e indispensabile. Se un'anima salvata vale più di tutto l'oro del mondo, allora non vi è obiettivo più grande di annunziare che Gesù salva per sempre chi pone fede in Lui. In definitiva, lo zelo rimane una delle virtù che dobbiamo coltivare e nutrire di una buona conoscenza, affinché possiamo imitare Cristo e essere di esempio agli altri. Che i credenti possano dedicarsi con zelo a questa virtù. Novembre 2006. Ellero